l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo le coordinate per trovarci anche virtualmente: i nostri siti euronetplus.eu oppure radio24.it, da dove poter riascoltare la puntata in podcast e trovare anche tutti i contributi extra e i vari link relativi agli argomenti che toccheremo, link che potete recuperare anche invece su Facebook e Twitter nel mio account personale @FedericoTaddia o ancora Euronet Plus R24. Ogni settimana un viaggio per raccontare questa Europa. Oggi partiamo da Lampedusa. Please, fast, your position, please, your position. 33, yes. 5-1. And then under. Okay, AP 52. We have a small children, please, can you have a break? Okay, how many people on board? I think it's about 150 persons. 100? What kind of boat? What? It's between 130 to 150. Okay. And we have most of them is women and kids. Please, can you help us very quickly? Madam, please, calm down, because we will send rescue, but you need to calm down. Okay, so save your battery. I will call you back, okay? Lampedusa, porta d'Europa. Lampedusa, porto di speranza, porto di disperazione, isola che abbiamo imparato a conoscere in questi anni a causa anche troppo dei suoi sbarchi. Lampedusa raccontata dai giornalisti, raccontata dai reportage, raccontata anche dal cinema, e stiamo parlando del film documentario Fuoco a Mare di Rosi, vincitore del Festival di Berlino 2016, un orso d'oro che va soprattutto alla popolazione di Lampedusa. Di questo ne parliamo con Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e uno dei protagonisti del film, che è qua con noi. Benvenuto Pietro, buon sabato. Buongiorno, buongiorno a voi. Pietro, partiamo dall'Europa. Com'è l'Europa? Cos'è l'Europa vista da Lampedusa? L'Europa vista da Lampedusa non apprezziamo molto in questo momento. Mm-hmm. Non apprezziamo molto perché non fa quello che dovrebbe fare, cioè a dire dare un po' di più attenzione a questo fenomeno, invece di erigere i muri, invece di rifiutare, invece di mettere filo spinato. In questi giorni stiamo assistendo a queste cose che per noi sono impensabili. Lampedusani è da 25 anni che si oppone a questo fenomeno. L'Italia da 25 anni e mai ha eretto muri, mai ha messo filostinate, mai li ha rifiutati, li ha sempre accolti. Quindi noi possiamo essere orgogliosi di essere italiani, di essere siciliani, di essere lampedusani. Certamente non ce la sentiamo di essere orgogliosi di questa Europa. Abbiamo visto la buona volontà di qualche nazione, di qualche Stato, però ricadiamo sempre nel buio più totale. Abbiamo sentito in questi giorni che l'Austria chiude le frontiere, la Bulgaria e tutti gli altri. Quindi questo non ci fa sicuramente piacere, anche perché cosa hanno fatto queste persone? Quale reato hanno commesso? Perché devono essere rifiutati dopo aver affrontato sofferenze infinite, rischiando di morire nel Mediterraneo, rischiando di morire nel deserto, dopo le torture, dopo le sevizie, dopo gli stupri, dopo tutto quello che hanno subito, bambini, donne, arrivano in Europa e trovano il rifiuto. Pensate quanta delusione, quanta amarezza. Quindi noi non possiamo fare altro che dire all'Europa, e lo facciamo attraverso soprattutto questo film di Gianfranco Rosi, che ha trovato forse la chiave giusta per sensibilizzare, per scuotere. Abbiamo scosso mezzo mondo, speriamo che riusciamo a scuotere anche quelli che si gira dall'altra parte e purtroppo non interviene. Io me lo auguro perché, io dico sempre una cosa, nel cuore anche dell'uomo più malvagio un angolino di bontà c'è, e io spero che noi andiamo a colpire quell'angolino e a fare breccia e quindi farle girare dalla nostra parte. Credo che sia significativo questo Orso d'Oro, al di là dell'apprezzamento artistico, proprio anche come significato, forse ecco, anche l'Europa, forse anche la Germania, che finalmente si accorge di cos'è Lampedusa. Hai parlato della chiave giusta con la quale Rosi è riuscita a raccontare l'isola. Qual è stata secondo te questa chiave? Ma la chiave giusta è che Rosi intanto ha girato questo documentario in un modo quasi invisibile, non ce ne siamo accorti nessuno. Io per prima, che ho visto il film per la prima volta, non mi ero reso conto, neanche sentivamo la sua presenza, non la sentivamo noi, non la sentiva Lampedusa, nessuno ha saputo che lui, che sapeva che lui doveva girare un film, e tutti gli chiedevano: Gianfranco, quando lo giri il film? Ma il film già era finito, e quindi è stato così bravo a non fare sentire il suo peso, a non fare sentire questa, come dire, tensione, sai, quando non si gira un film. Quindi tutto quello che si vede nel documentario è tutto naturale, tutto, non è artificiale, è la vita di Lampedusa che scorre normalmente, e durante questo percorso visto da questo bambino straordinario, Samuele, un bambino che vive la sua vita, e in questo cammino si inseriscono dei fatti, purtroppo, che sono quelli che lui riesce a evidenziare e a fare capire al mondo quello che succede. Quindi per noi questo film ha un significato importantissimo, perché è quello che noi volevamo fare capire al mondo intero, e speriamo di riuscirci e andare a colpire quelle persone, quei politici, quelli che possono fare qualcosa e che finalmente facciano qualcosa. Pietro, tu sei nato a Lampedusa? Sì, io sono a Lampedusa, sono lampedusano di generazioni. Mm-hmm. Tutta la mia figlia, la mia famiglia si trova a Lampedusa, tranne i miei figli che sono fuori per studio, perché studiano fuori, stanno fuori, ma noi siamo lampedusani, io sono lampedusano e sono orgoglioso di esserlo, perché mi rendo conto che i lampedusani hanno un grande cuore, un cuore straordinario, senza che da 25 anni, forse di più, che vivono questo fenomeno dell'immigrazione, non si sono mai lamentati, non hanno mai protestato, hanno sempre accolto, hanno dato tutto quello che avevano. E questa è una testimonianza straordinaria. Io mi auguro che un po' tutti nel mondo si sentano un po' di lampedusani, un poco lampedusano, e quindi che riescano a dare quel minimo almeno perché si possa risolvere questo problema. Grazie davvero Pietro, complimenti per il vostro impegno, a te, a tutti, grazie, i tuoi concittadini. Grazie a voi. Buon grazie lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, grazie ancora, buongiorno. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, poi ancora qua, con l'altra Europa. Euro post-it. Guide ISFOL. Attenzione aspiranti tirocinanti e stegisti. ISFOL ha appena pubblicato le nuove edizioni dei suoi manuali di istruzioni dedicati al tirocinio. Si chiamano Il manuale del tirocinante, guida pratica al tirocinio extracurricolare, giunto alla seconda edizione, e Manuale dello stage in Europa, ormai alla quarta edizione. Si tratta di due guide indispensabili per i giovani che vogliano affrontare questo tipo di esperienza, spesso decisiva per il loro futuro professionale. I manuali, completamente aggiornati nei contenuti, sono entrambi strutturati in due parti. La prima più teorica, che illustra lo strumento e ne spiega la natura. La seconda, del tutto pratica, con schede contenenti le informazioni necessarie per progettare il proprio stage. Le guide sono scaricabili gratuitamente dal sito isfol.it. L'altra Europa. Every day, hundreds of pieces of information on the spread of infectious diseases are generated by public health professionals across Europe and reported in the media. Scientific and medical experts at the European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, bring these pieces together to build the whole picture for Europe. Every morning, they assess the likely significance and impact of any new threat in order to keep Europe safe. Anche l'Europa si prepara a combattere il virus Zika. L'altra Europa, ora parliamo di questo documento che è stato presentato qualche giorno fa dal Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. Abbiamo il piacere di avere di nuovo qua con noi all'altra Europa Sergio Brusin, che è capo della sezione di intelligence epidemica. Ciao Sergio, buon sabato, ben tornato all'altra Europa. Buongiorno e buongiorno anche agli ascoltatori. Abbiamo letto tanto di Zika, come insomma sempre accade, giornalisticamente hanno una eco molto, molto amplificata questi fatti. In questo caso è un nuovo virus di cui si sa abbastanza, ma forse non è tutto. Ci sono timori, non sappiamo quanti siano timori reali. E voi, come sempre, avete analizzato la situazione? Certamente, come sai, l'ICDC, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive, ha proprio nel suo mandato quello di valutare i rischi epidemici una volta che emergono, sia per malattie ben conosciute, sia per malattie meno conosciute come lo Zika, ed è nostro dovere valutare il rischio e dare poi una serie di opzioni agli Stati membri dell'Unione Europea per poter cercare di contenere il rischio, per contenere la malattia, per contenere tutte quelle che sono possibili conseguenze che queste malattie possono avere per i cittadini europei in Europa, ma anche per i cittadini europei che viaggiano per il mondo. E quindi produciamo queste valutazioni del rischio, che sono dei documenti che comprendono una parte un pochino storica, dove descriviamo quello che sta succedendo, le varie epidemie che ci sono, una valutazione sulla malattia in sé per sé e una valutazione poi di quali sono i rischi per i cittadini europei in Europa e per i cittadini europei che possono viaggiare dove queste malattie ci sono. Zika è una malattia particolare, chiamarla nuova è un po' impreciso, la si conosce dal secolo scorso, quasi 80 anni che conosciamo lo Zika, però è una malattia che solo di recente ha dimostrato di avere un'importanza epidemica notevole. La maggior parte poi delle nostre preoccupazioni si è arrivata alla superficie con quello che sta succedendo in Brasile, dove ci sono queste forti sospetti che lo Zika sia collegato a malattie congenite come la microcefalia o a malattie neurologiche come la sindrome di Guillain-Barré. Uh-huh. E chiaramente questo per noi è una particolare preoccupazione, perché questa è la novità della malattia. La malattia in sé per sé non è una malattia preoccupante, è una malattia molto lieve che non ha grossi sintomi, una persona su cinque mostra sintomi, la maggior parte delle persone si infetta ma non ha proprio nessun sintomo. Quindi non c'è stato un aumento dei contagi, c'è più attenzione perché appunto le ricerche hanno decretato queste correlazioni tra il virus e le malattie? Noi sappiamo che lo Zika è una malattia che ha sempre circolato in maniera sporadica, diciamo, in Africa. La novità è che sì, c'è stata una grossissima epidemia in un posto dove lo Zika non era mai arrivato, come il Brasile e adesso il Centro America. Quelle sono popolazioni che non hanno mai avuto esposizione allo Zika e quindi in quelle popolazioni c'è un'epidemia esplosiva, c'è un'epidemia importante che colpisce tutti quanti perché nessuno era mai stato esposto. Mm-hmm. Ecco, in questa valutazione del rischio, come avete valutato relativamente a una possibile diffusione in Europa? Allora, la malattia è una malattia trasmessa soprattutto dalle zanzare. Ci sono due tipi di zanzare che sono implicate. La principale è la Aedes aegypti, che è una zanzara che trasmette anche la febbre gialla, il dengue, la chikungunya. È una zanzara ben conosciuta e molto diffusa nelle zone tropicali del globo. Fortunatamente in Europa c'è solamente nell'isola di Madeira, e da nessun'altra parte nell'Europa continentale. Chiaramente quei territori d'oltremare della Francia o dell'Olanda che sono nei Caraibi, quelli hanno moltissima Aedes aegypti. L'altra zanzara che può essere implicata è l'Aedes albopictus, meglio conosciuta da noi come zanzara tigre. Il fatto è che però non sappiamo quanto questa zanzara tigre sia capace e competente a trasmettere lo Zika. Da un punto di vista teorico sì, ci sono stati alcuni studi, ma non l'abbiamo mai visto sul campo. E quindi la zanzara tigre, che è molto diffusa nel sud dell'Europa e in quasi tutta Italia, è parecchio diffusa, però non sappiamo quanto sia efficace nella trasmissione. Questa è una cosa che speriamo di scoprire in questo periodo, tra adesso, quando la zanzara in Europa non è attiva, e maggio-giugno, quando comincerà ad essere attiva, se abbiamo sufficienti studi per prevedere quanto competente e quanto efficiente la zanzara è, allora potremo avere delle risposte molto precise. E l'estate è anche il periodo dei viaggi, quindi insomma c'è anche un po' il rischio che aumenta relativo a chi andrà a frequentare queste zone. Ricordiamo il sito di riferimento ecdc.europa.eu, che è il sito del Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle Malattie. E grazie davvero a Sergio Brusin, magari ci risentiamo nelle prossime settimane in caso di novità. Buon lavoro. Certamente, grazie. Buon sabato, ciao ciao. Buon sabato. Ancora, ovviamente ancora l'Europa al centro, è un aspetto di questa Europa a cui teniamo particolarmente da sempre, che è quella del raccontare, della narrativa europea, quella che porta al centro i fatti, porta al centro i protagonisti che poi sono i cittadini, e dell'esigenza di parlare anche in modo nuovo, in modo diverso dell'Europa. Se ne è accorta anche la Commissione europea, che ha stanziato voci di finanziamento per un progetto importante, si chiama New Narrative for Europe, il progetto avviato un paio d'anni fa e che ora entra in una seconda fase. Di tutto ciò ne parliamo con Jan Wilker dell'European Youth Forum, quindi è il forum dei giovani europei ed è una delle istituzioni che coordina questo progetto. Ciao Jan, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buon sabato. Cosa significa raccontare in un modo nuovo, narrare in un modo diverso l'Europa? È un bel match, direi, perché sappiamo tutti che l'Europa oggi è in crisi e c'è proprio un bisogno di dialogo, di coinvolgere di più i cittadini e soprattutto i giovani in questa discussione sull'Europa, su che cosa si può cambiare, che cosa bisogna modificare nelle politiche, ma anche nelle maniere di fare le politiche. E quindi questa è un'iniziativa molto benvenuta dallo Forum Giovani, di coinvolgere di più i cittadini e soprattutto i giovani. A febbraio, inizio di febbraio, è partita la seconda parte del progetto, 1,35 milioni di euro sono i soldi stanziati. Voi siete un po' il braccio operativo della Commissione europea per questo progetto. Di cosa si tratta? Qual è il fulcro? Sì, l'iniziativa, come ha detto prima, non è nuova, ma invece sta proprio cambiando di aspetto, perché è stato nel 2013 che il presidente della Commissione Barroso ha deciso: parliamo sempre di Europa, di crisi finanziaria, economica, eccetera, e non si parla di che cos'è l'Europa effettivamente per i cittadini. E a questa ricerca di nuove narrative hanno coinvolto filosofi, uomini politici, artisti di alto livello come Michelangelo Pistoletto, ma non si è tanto sentito parlare di questa iniziativa, forse non ne ha sentito parlare neanche lei. Sì. E quindi vuol dire che il messaggio non è arrivato ai cittadini. Quindi nel 2015 la Commissione, con lo sostegno del Parlamento europeo, ha deciso di cambiare strategia, di coinvolgere di più soprattutto i giovani, e quindi hanno contattato noi, il Forum Europeo dei Giovani, la piattaforma delle organizzazioni di gioventù in Europa, con i membri come il Forum Nazionale Giovani dell'Italia, per organizzare dei eventi attraverso tutta l'Europa, organizzare dei dibattiti di giovani che discutono che cosa è l'Unione Europea per loro, che cosa sono i problemi oggi in Europa e cosa si può cambiare, che cosa si può migliorare, di sviluppare proprie idee e proposte per migliorare politiche in Europa. Youthforum.org è il portale di riferimento, lì immagino si troverà tutto il programma delle iniziative proposte. Sì, sì, teneremo ovviamente tutto il mondo aggiornato su questa iniziativa, dove noi siamo un partner della Commissione, non siamo nel lead di tutta l'iniziativa, ma stiamo organizzando e mobilizzando i nostri membri per utilizzare al meglio questa opportunità data di realizzare questi eventi nazionali di dialogo tra i giovani. Jan, grazie davvero, ci sentiremo prossimamente, così magari entriamo anche nel vivo delle vostre attività per raccontare in diretta quello che accadrà. Buon lavoro! Grazie mille, arrivederci. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. @ Federico Taddia per seguirmi su Twitter e Facebook, radio24.it, il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata e trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Continuiamo a parlare di Europa, lo facciamo da un punto di vista particolare, che è quello di un referendum, che è quello di una nazione che si sta chiedendo se rimanere o se uscire. Sto parlando ovviamente dei Brexit, del referendum sull'adesione del Regno Unito all'Unione Europea. Si terrà il 23 giugno, ma ci saranno anche altre elezioni prossimamente in quelle di Londra, e di tutto ciò ne parliamo con una candidata di fatto italiana al Consiglio Comunale di Londra per il Partito Laburista. Diamo il benvenuto a Ivana Bartoletti. Ciao Ivana. Buongiorno, ciao, ciao a tutti. Cosa ci fai tra i candidati a Londra? Beh, io vengo dalla politica, mi è sempre piaciuta molto la politica e vengo un po', insomma, dalla politica in Italia e poi un po' a livello europeo, e quando poi mi sono trasferita a Londra dopo un paio d'anni, diciamo, mi è ritornata la passione, quindi mi sono lasciata coinvolgere nel Partito Laburista. Sono stata candidata alle europee nel 2014 per la città di Londra e adesso per quella che viene chiamata la London Assembly, che sì, è l'assemblea della città di Londra. Uh-huh. Che differenze ci sono tra la politica in Italia e la politica lì? Le più immediate che hai potuto toccare con mano? Ma diciamo che è ovviamente molto diverso. Poi Londra è una realtà completamente particolare, perché è una città non solo enorme in termini di numeri, ma poi una città così multiculturale, tra l'altro, che cambia tantissimo. Basta prendere la metropolitana da nord a sud, nell'arco di 30 chilometri si visitano 10 mondi diversi. Quindi Londra è un po' un mondo a parte. E la politica è diversa, sì, diciamo che la politica qui è più un lavoro come un altro, non è un privilegio come magari avviene in altri paesi europei, ma è veramente un lavoro come un altro. Ci si accede per curriculum ed è un lavoro di servizio della popolazione. Ovviamente, insomma, si tratta sempre di esseri umani, quindi le ambizioni ci sono dappertutto. Stai facendo campagna elettorale in bicicletta? Sì, tra l'altro in bicicletta, perché io poi vado in bicicletta dappertutto. Peraltro io sono anche al nono mese di gravidanza, continuo ad andare in bicicletta. dove sono candidata io non è proprio centrale, è anzi nella zona verso est. Tra l'altro, per chi è interessato alla parte demografica e sociologica, insomma, di Londra, è affascinante, perché Londra si sta muovendo ad est. Il centro di Londra sta diventando sempre di più un circo, diciamo, non solo per i ricchi, perché le case costano tantissimo, e si sta svuotando quindi di un sacco di gente, e Londra si sta spostando a est, e c'è questo grandissimo progetto di un nuovo treno che collegherà la parte veramente a est di Londra con il centro di Londra in un quarto d'ora. Uh-huh. E quindi sta cambiando molto la... Quindi è uno spostamento gestito comunque? Uno spostamento... Sì, è uno spostamento gestito, e in parte anche dovuto all'aumento enorme dei prezzi delle case, enorme. Uh-huh. Cioè, stiamo parlando di follie astronomiche, davvero. Uh-huh. Ivana, invece, cosa succederà il 23 giugno? Come ci si sta preparando, avvicinando a quella data? Vale, è una bella domanda, perché non è scontato, non è assolutamente scontato purtroppo. Diciamo che l'atteggiamento dei britannici all'Europa è sempre stato un po' ambivalente, un po' per questioni storiche, culturali, un po' per questioni geografiche, e un po' perché, non avendo l'euro, si sono sempre... Hanno sempre avuto un atteggiamento più distaccato, e quindi non è per nulla scontato, devo dire la verità, ed è un problema serio, perché non so se avete sentito, ma il sindaco di Londra, che è uno attuale, Boris Johnson, che è uno dei più famosi politici a livello nazionale, ha deciso di scendere in campo per la Brexit, e l'ha fatto non tanto per ragioni di opportunità per il paese, ma quanto perché c'è una corsa per la successione a Cameron al momento. Quindi ci sono dinamiche interne al partito conservatore, e diciamo che i media, i giornali britannici non sono particolarmente a favore dell'Europa, anzi sono giornali come il Daily Mail particolarmente critici, quindi il dibattito non è un dibattito onesto. A Londra, ovviamente, che è la città più multiculturale, il dibattito sul sindaco, che le elezioni si terranno il 5 di maggio, si lega profondamente al dibattito sull'Europa. Il sindaco laburista è fortemente pro-europeista, il sindaco conservatore si è schierato per l'uscita dall'Europa. Sì. Diciamo che è tutto da giocare, è tutto da vedere. La città di Londra è più pro-europeista, ma spostandosi fuori la situazione è molto diversa. Ivana, tu ti occupi molto anche di questioni femminili. Le donne potranno giocare un ruolo in questo referendum? Ma potranno, nel senso, diciamo che potranno, nel senso che è essenziale che le donne capiscano e che vadano a votare per il referendum, perché effettivamente ci sono, soprattutto in ambito dei diritti del lavoro e anche i diritti riproduttivi, e anche in termini di questioni come la sicurezza, sì, la health and safety, diciamo che l'Europa ha un impatto molto grosso sulla vita delle donne. Bisogna però che le donne lo sappiano, e purtroppo in Inghilterra, in Gran Bretagna, c'è sempre stata una scarsa informazione su quello che l'Europa porta ai cittadini quotidianamente, e quindi bisogna che le informazioni arrivino. Il tema fondamentale però è che in questo paese al momento il dibattito sull'Europa è un dibattito molto economico e finanziario, che è giusto, perché ovviamente si parla di lavoro, si parla dell'Europa. La Gran Bretagna è un paese che ha sempre goduto di una dimensione speciale nei confronti dell'Europa, perché è sempre stata vicina all'euro ma non parte dell'euro, quindi tutte le aziende, la finanza, sono state ben contente di lavorare, operare qui a Londra per la prossimità alla zona euro, pur non essendo dentro l'eurozona, quindi hanno avuto i benefici dell'Europa più che gli svantaggi, se si può dire. Però il tema fondamentale è che bisogna dare a questo dibattito in questo paese un po' di cuore e di passione, e quindi cercare di far capire alla gente che sì, è ovvio che si tratta dell'economia, ovvio che si tratta del lavoro, ma in realtà si tratta anche di che tipo di paese abbiamo. Certo. Dove guardare? E quindi è un paese aperto al mondo, esattamente, è un paese aperto al mondo che guarda al futuro, che vuole affrontare insieme ad altri le grandi sfide del domani, come l'immigrazione e la crescita economica globale, l'ambiente, oppure un paese che vuole restare chiuso. E purtroppo, ma lo vediamo anche in America, purtroppo di questi tempi il populismo sta andando lontano, invade, certo. E quindi è più difficile. Grazie davvero, Ivana. ivanabartoletti.co.uk, per chi volesse conoscerti meglio. Ci ritroveremo sicuramente nei pressi del referendum, tra un pannolino e l'altro, tenteremo di commentare insieme com'è andata, ok? Assolutamente, grazie, buona giornata. Bocca al lupo, ciao, ciao, ciao. Europost-it. Opportunità di scambio giovanile in Olanda. Avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati all'arte? L'associazione culturale Beyond Borders di Corato, in provincia di Bari, è alla ricerca di 4 partecipanti e un group leader per lo Youth Exchange Erasmus Plus, intitolato Composition 4, Voyage de l'Art, che si terrà a L'Aia in Olanda dal 27 giugno al 7 luglio. I partecipanti saranno invitati a pensare e a discutere sulla definizione di arte attraverso visite guidate nei musei, esplorazioni e workshop. Per saperne di più, collegatevi al sito associazionebeyondborders.blogspot.it. Ma affrettatevi, la scadenza per le candidature è il 1 marzo. E al ritmo di School of Rock andiamo a parlare di scuola ed Europa, e lo facciamo perché sono stati annunciati i premi europei Twinning 2016. Sapete, questo programma che prevede gemellaggi elettronici fra scuole in Europa, che offrono agli insegnanti e alle classi l'opportunità di connettersi, collaborare e condividere metodi didattici. Oltre 200 candidature, sono stati selezionati 11 progetti, di questi 7 coinvolgevano anche l'Italia, che dopo la Spagna è la nazione che ha ricevuto il numero più alto di riconoscimenti. Diamo quindi il benvenuto alla professoressa Paola Cascione, professoressa di latino e greco del liceo classico statale Orazio Flacco di Bari. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Benvenuta. E poi c'è con noi Angela Lupo, professoressa di spagnolo del liceo Isabella d'Este, siamo a Tivoli in provincia di Roma. Buongiorno Angela. Buongiorno. Allora, a Bari, The Incredible Life of Marcus Pontius Europeus, questo è il titolo del progetto. E professoressa Cascione, chi è Marcus Pontius? Marcus Pontius è un personaggio romano inventato dai nostri alunni. I nostri alunni hanno inventato un po' degli episodi della sua vita legati a varie tematiche, quali l'educazione, la cucina, la cultura, il viaggio, la solidarietà. Il nostro Marcus Pontius appunto ha viaggiato attraverso i paesi dell'Europa, in particolare nei territori delle scuole coinvolte nel progetto. Ok, scuole... adesso guarda, le chiedo, a proposito di viaggio, ci fermiamo un attimo che è il momento del traffico, poi torniamo immediatamente per conoscere nel dettaglio questi due progetti. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, stiamo parlando di i Twinning con un paio di progetti tra i vincitori dell'edizione 2016. E professoressa Cascione, stiamo parlando appunto di questo viaggio che avete organizzato con i paesi coinvolti: Spagna, Francia, Polonia, Grecia e Turchia. Tra l'altro non è il vostro primo progetto di Twinning, vero? No, questo è uno, insomma, dei numerosi progetti Twinning che abbiamo condotto con la scuola spagnola di Montico e il professor Angel Luis Gallego Real, un liceo anche di Catania. Noi siamo tre, diciamo, scuole che collaborano già da 7-8 anni. Abbiamo cominciato con un progetto su Ercole, sulle fatiche di Ercole, e poi abbiamo proseguito con un progetto dal titolo Short Latin Movie, e dopo siamo approdati con altri partner e quindi altre scuole a questo progetto Twinning, che vede come protagonista Marcus Pontius. Avete vestito i ragazzi da antichi romani, hanno ambientato la scena nella moderna biblioteca della scuola, una bella contaminazione per raccontare l'Europa di oggi. Sì, i ragazzi si sono molto divertiti, perché naturalmente prima hanno dovuto studiare, imparare come dovessero abbigliarsi per essere più o meno simili a degli antichi romani. Poi ovviamente in altre circostanze hanno recitato anche in luoghi di interesse archeologico, ad esempio per Short Latin Movie hanno recitato a Vernazza. Invece quest'anno abbiamo deciso di usare come scenario la colorata e modernissima biblioteca scolastica. Mm-hmm. E quindi, insomma, su questo sfondo moderno i ragazzi hanno recitato le parti da loro inventate in latino e abbiamo simulato una intervista. Abbiamo deciso che Marcus Pontius intervistasse un maestro circa il viaggio di Orazio lungo la via Appia, quindi con tutte le tappe anche nella nostra regione, nella Puglia. E insomma i ragazzi hanno partecipato con grande gioia e grande entusiasmo e insomma hanno imparato divertendosi. Certo, che, insomma, questo è uno dei valori che i Twinning propone. E complimenti a Paolo Cascione, complimenti a tutta la classe. Ricordiamo, avete vinto il premio Area Mediterraneo. Grazie davvero per avercelo raccontato. Invece, professoressa Lupo, per voi è stata la vostra prima volta ai Twinning? Sì, sì, effettivamente è stata la prima volta. Io dico anche così scherzando che un po' il primo momento di chi non sa bene quello che insomma succederà, l'inconsapevolezza, esatto, l'incoscienza del primo momento, ma sicuramente il lavoro è stato grandissimo e l'idea ci è venuta soprattutto perché noi abbiamo delle classi iPad a scuola e volevamo in realtà creare un percorso curricolare facendo quindi lavorare i ragazzi in classe, cioè la nostra idea era quella di far lavorare i ragazzi in classe, farli interagire con ragazzi francesi, perché noi siamo gemellati in questo progetto Twinning con dei francesi, e quindi far conoscere loro un altro tipo di cultura che era quella culinaria, perché all'interno del curriculum del secondo anno, per quanto ci riguardava, per quanto riguarda appunto l'apprendimento della lingua spagnola, c'è l'alimentazione, oltre che chiaramente la cultura in generale. Certo, voi avete ricordiamo il premio per i progetti in lingua spagnola, sì, e avete fatto, sì, se non erro, una sorta di ricettario italo-francese. Dunque, il nostro, diciamo che il prodotto finale, proprio perché abbiamo lavorato per obiettivi ben precisi, sviluppi di competenze ben precise, era semplicemente la realizzazione di una rivista sia online che cartacea che prevedesse, partendo da una domanda di chimica o fisica o comunque principi di alimentazione, una realizzazione e la ricerca appunto nelle tradizioni francesi italiane di ricette che in qualche modo rispondessero ad alcuni fenomeni chimici. Per esempio, una domanda tipica è stata in cosa consiste la lievitazione e dove si può ritrovare, e quindi c'è stata una ricerca proprio nella nostra tradizione che è stata poi scambiata con i ragazzi francesi, realizzazione di video, di fotografie, insomma sono stati un po' dei cuochi, ecco, si sono un po' ritrovati come cuochi, però di ricette anche francesi, e così hanno fatto i ragazzi stranieri. Insomma, multilinguismo, ma anche le multidiscipline entrate in gioco. Itwinning.it, come sempre, per tutte le informazioni. Complimenti, professoressa, a lei, a tutti i ragazzi, anche grazie, ai colleghi che hanno partecipato a questo progetto. Ragazzi e colleghi. Buon lavoro! Hello, my name is Mahmoud from Egypt. Hello, I'm Erekle from Georgia. Hi, my name is Thomas, I'm from Poland. Hello, my name is Rizik Sayara from Palestine. Hello, I'm Marco from the Netherlands. Hello, my name is Thibaut, I'm from France. We have passion. We have a team. We need your support. Help us funding our 2016 home game. Nestonian Force. Merci. E chiudiamo questa puntata con una storia tutta italiana e tutta internazionale, una storia che si sta vivendo a Tallinn, siamo in Estonia, e che vede protagonista un giornalista e blogger, si chiama Angelo Palmieri, è il fondatore del Rumori Calcio. Chiediamo a lui di cosa si tratta. Ciao Angelo. Ciao Federico, ciao a tutti. Che cos'è Rumori Calcio? La nazionale più internazionale del mondo, direi. La nazionale internazionale, sì, hai detto bene. Beh, è un'idea che mi è venuta un paio di anni fa a seguito appunto del sito su cui mi occupavo di calcio estone in inglese, Rumori di Spogliatoio. Sì. Abbiamo avuto una sponsorizzazione sul sito e anche avuto una muta di maglietta. Ho detto, ma perché non mettere insieme magari qualche vecchia conoscenza del calcetto, così iniziare a giocare insieme. Abbiamo iniziato a fare dei tornei così, abbiamo continuato d'inverno al coperto facendo il fuzza, perché qua ovviamente con determinate temperature non puoi giocare all'esterno, e poi la primavera scorsa abbiamo detto, ma perché non costituiamo un club? Ero già, diciamo, affiancato da altri compagni di viaggio, un altro italiano, due ragazzi georgiani e un turco, abbiamo deciso di fondare questo club. Mm-hmm. E adesso avete lanciato anche una campagna di crowdfunding, perché servono anche i finanziamenti. Per iscrivervi a quale categoria? Allora, ci iscriviamo a quella che, diciamo, grosso modo, comparando al sistema italiano, siamo verso la terza categoria come livello calcistico. Qui però è molto più semplice perché abbiamo solo sei livelli, quindi noi partiamo dal più basso, dal sesto, e poi insomma vedremo. Il crowdfunding è uno dei, diciamo, pilastri così del finanziamento del club. Abbiamo iniziato di tasca nostra per gli allenamenti, che è la voce in capitolo più grossa, e poi abbiamo dei buoni sponsor, uno tra l'altro dall'Italia che fa delle ottime cialde per il caffè, vi saluto, cialdissima, e niente, uno sponsor estero, uno svizzero che ci hanno aiutato con la licenza per il club, e però diciamo abbiamo cercato di invitare tutti i simpatizzanti, chi ci segue, a donare qualcosa per aiutarci almeno per le partite casalinghe, perché questi soldi serviranno appunto a finanziare le nove partite in casa, più del campionato, più eventualmente le varie coppe. Ma tu sei fondatore e giocatore? Allora, io sono fondatore, giocatore non direi proprio perché ho 41 anni, quindi non mi schiero, però sono soprattutto l'allenatore, quindi organizzo la squadra, gli schemi, gli allenamamenti, tutto quanto, insomma, ed è molto, devo dire, divertente, molto interessante, anche perché si tratta di gestire un gruppo, di gestire diverse culture, diversi background. Tanto, insomma, vedevo i giocatori della rosa, polacchi, francesi, estoni, sì, egiziani, turchi, sì, russo, olandesi, georgiani, macedoni, danesi, spagnoli, quindi insomma sì, è una piccola ONU più che una squadra. Sì, sembra un po' il Consiglio delle Nazioni Unite, però siamo un po' più, diciamo, armoniosi sotto questo punto di vista. Però ho colto anche ambizione, insomma, di salire anche di categoria, comunque. Cioè, insomma, mai dire mai. Mai dire mai. Fonda un club e dice no, ma io voglio rimanere in basso per sempre. È chiaro che uno inizia dal basso, poi a poco sportivamente dobbiamo ancora raggiungere tutto, però siamo ambiziosi. Alla fine penso abbiamo dei buoni giocatori, almeno per quello che vedo settimana dopo settimana, quindi magari di anno in anno dovremmo un po' rinfrescare, perché l'età media comunque è altina, abbiamo qualche giovane 19-20 anni, a poco inseriremo, poi più là chissà, insomma, la cosa più importante per ora è consolidarci, cioè farci conoscere, soprattutto dalla comunità internazionale qui a Tallinn, così diventare, diciamo, una realtà fissa. E poi magari... E poi si vedrà, esatto. Certo. Rumoricalcio.eu per tutte le informazioni, la piattaforma di crowdfunding, sì, invece è stardipike.ee. Ciao Angelo, in bocca al lupo. Esatto. Ciao, Federico. E con questa bella storia chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Un grazie a Roberta Frisani alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Radio24.it, come sempre, da dove poter scaricare il podcast. L'appuntamento invece a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.